Ad alta voce. Peppe Servillo legge Le voci di Marrakesh di Elia Scanetti. Traduzione di Bruno Nacci. I souk. C'è aroma nei souk e freschezza e varietà di colori. L'odore, che è sempre piacevole, cambia a poco, secondo la natura delle merci. Non esistono nomi, né insegne, neppure vetrine. Tutto ciò che si vende è in esposizione. Non si sa mai quanto costeranno gli oggetti, né essi hanno infilzati i cartellini dei prezzi, né i prezzi sono fissi. Tutti gli stanzini e le botteghe, 20 o 30 o anche più, nei quali si vendono le stesse cose, sono vicinissimi uno all'altro. Qui c'è un bazar per le spezie e là uno per gli articoli in pelle. I cordai hanno il loro posto e così pure i cestai. Tra i mercanti di tappeti ce ne sono alcuni che stanno sotto grandi volte spaziose. Ci si passa davanti come se fosse una città a parte e si viene invitati dentro con grande insistenza. I gioiellieri sono sistemati in uno speciale cortile e in molte delle loro strette botteghe si vedono uomini al lavoro, si trova di tutto, ma sempre in un gran numero di esemplari. La borsa di cuoio che cerchiamo è esposta in 20 botteghe diverse, ma tutte vicinissime una all'altra. Là c'è un uomo accovacciato in mezzo alla sua merce, ha tutto a portata di mano, lo spazio è minimo. Non ha che da sporgersi un poco per prendere una qualsiasi delle sue borse di cuoio. E solo per gentilezza, se non è molto vecchio, si alza in piedi. Ma l'uomo nello stanzino accanto, pur essendo il suo aspetto del tutto diverso, sta seduto in mezzo alla stessa merce. Si va avanti così, per 100 metri su entrambi i lati del passaggio coperto. Gli articoli in pelle di cui dispone questo bazar, che è il più grande e il più famoso della città, anzi dell'intero Marocco del Sud, vi vengono offerti per così dire tutti in una volta. In questa esibizione c'è molto orgoglio. Vi fanno vedere che cosa sono capaci di produrre, ma anche quanto hanno prodotto. È come se le borse stesse fossero consapevoli di rappresentare la ricchezza e si mettessero in bella mostra agli occhi dei passanti. Non ci stupiremmo se esse, tutte le borse insieme, cominciassero ad un tratto a muoversi ritmicamente e ci rivelassero in una pittoresca e orgiastica danza la grande seduzione di cui sono capaci. L'impressione di solidarietà tra questi oggetti, che stanno uniti tra loro e ben separati da tutti gli altri oggetti di diverso tipo, si ricrea nel passante, secondo il suo estro, ad ogni giro che compie attraverso i souk. Oggi vorrei andare per spezie, egli si dice, e un'incredibile mescolanza di odori sale alle sue narici, e già si vede davanti le grandi ceste di pepe rosso. Oggi avrei voglia di lane colorate, e già queste dall'alto pendono giù da tutte le parti in diversi colori, rosso porpora, blu scuro, giallo oro, nero. Oggi voglio andare per ceste e vedere come si intrecciano. È sorprendente la dignità che acquistano in tal modo questi oggetti fabbricati dall'uomo. Non tutti sono belli. Sempre di più si intrufola tra loro robaccia di dubbia provenienza, fatta a macchina e importata dalle regioni del nord. Ma il modo in cui sono presentati è ancora quello di una volta. Accanto alle botteghe dove si vende soltanto, ce ne sono molte altre, davanti alle quali si può osservare come gli oggetti vengono fabbricati. Così l'osservatore vede fin dall'inizio come si fanno le cose, e questo lo mette di buon umore, perché fa parte del nostro desolante modo di vivere moderno, d'essere costretti a ricevere in casa ogni cosa bella e fatta, pronta per l'uso, come uscita da magici e orribili congegni. Qui, invece, è possibile vedere il cordaio intento alacremente al suo lavoro, e appesa accanto a lui la provvista di corde già ultimate. In minuscole botteghe, schiere di ragazzini lavorano al tornio, 6 o 7 alla volta, mentre alcuni giovanotti, con i pezzi di legno che man mano preparano i ragazzini, mettono insieme dei bassi tavolinetti. La lana, di cui ammiriamo i colori luminosi, viene tinta sotto i nostri occhi. E ovunque se ne stanno seduti in circolo dei ragazzini che sferruzzano berretti con graziosi motivi di vari colori. È una pubblica attività. È un fare che esibisce se stesso insieme all'oggetto finito. In una società che tiene nascosto così tanto di sé, che agli stranieri cela gelosamente l'interno delle sue case, la figura, il volto delle sue donne e perfino i suoi templi, questa intensa ostentazione del produrre e del vendere è doppiamente affascinante. In verità, io volevo imparare a conoscere le regole di quel commercio. Ma davanti agli oggetti che vidi mercanteggiare entrando nei souk, finii ogni volta col perdere di vista il mio scopo. Ad una mente ingenua appare incomprensibile perché mai la gente si rivolga a un certo commerciante di cuoio marocchino, proprio a quello, dal momento che lì accanto ce ne sono altri 20 e che la loro merce quasi non si distingue dalla sua. Si può benissimo andare da uno all'altro e poi tornare dal primo. All'inizio nessuno sa mai con certezza in quale bottega farà i suoi acquisti. Persino chi avesse deciso di sceglierne una tra le tante avrebbe in seguito moltissime occasioni per cambiare idea. Il passante che cammina all'esterno non trova niente che lo separi dalla merce, né porte né vetrine. Il mercante seduto in mezzo alla sua merce non esibisce il suo nome e, come ho già detto, riesce facilmente ad arrivare dappertutto. Ogni oggetto viene offerto al passante con grande premura. Egli può tenerlo a lungo in mano, può parlarne a lungo, può porre domande, esprimere dubbi e, se ne ha voglia, raccontare la sua storia, la storia della sua gente, la storia del mondo intero, senza comprare nulla. Quell'uomo tra le sue merci è soprattutto questo. È un uomo tranquillo. Sta sempre seduto là. Sembra sempre vicino. Ha poco spazio e poche occasioni per movimenti ampi. Appartiene alle sue merci, come esse appartengono a lui. La merce non viene messa via. Egli le tiene sempre le mani o gli occhi addosso. Esiste un'intimità che è seducente tra il mercante e i suoi oggetti. Egli li custodisce e li tiene in ordine come se fossero la sua numerosissima famiglia. Non lo disturba. E non lo angustia il fatto di conoscere con esattezza il loro valore, perché egli lo tiene segreto e nessuno lo saprà mai. Questo conferisce alla contrattazione una nota appassionante e misteriosa. Solo lui può sapere quanto ci siamo avvicinati al suo segreto, ed è sempre allerta, pronto a parare ogni colpo con destrezza, così che la distanza che protegge il valore non sia mai messa in pericolo. Per il compratore è una questione d'onore non lasciarsi imbrogliare, anche se l'impresa non è facile, perché egli brancola sempre nel buio. Nei paesi in cui vige la morale del prezzo, e perciò dominano i prezzi fissi, comprare qualcosa non è certo un'arte. Qualsiasi imbecille riesce a trovare le cose di cui ha bisogno. Qualsiasi imbecille, purché sappia leggere i numeri, è in grado di non farsi abbindolare. Nei succhi, invece, il prezzo che viene detto per primo è un enigma inafferrabile. Nessuno lo conosce in anticipo, neppure il commerciante, perché di prezzi ce ne sono moltissimi, a seconda delle circostanze. Ciascuno di essi si riferisce a una situazione diversa, a un cliente diverso, a un diverso momento della giornata, a un diverso giorno della settimana. Ci sono prezzi per singoli oggetti e altri per due o più articoli insieme. Ci sono prezzi per stranieri che si fermano in città un giorno soltanto e altri per stranieri che vivono qui già da 3 settimane. Ci sono prezzi per i poveri e prezzi per i ricchi, e i più alti sono naturalmente quelli per i poveri. Viene da pensare che ci siano più varietà di prezzi che varietà di uomini nel mondo. Ma questo è soltanto l'inizio di una faccenda complicata, del cui esito finale nessuno sa nulla. Qualcuno sostiene che bisogna scendere a circa 1/3 del prezzo primitivo, ma questa non è altro che una stima grossolana, una di quelle insipide generalizzazioni con cui ce la si sbriga con coloro che non vogliono, non sono capaci di addentrarsi nelle sottigliezze di questa antichissima procedura. È gradito che il viavai delle trattative duri una piccola sostanziosa eternità Il negoziante si rallegra del tempo che ci concediamo per fare i nostri acquisti. Gli argomenti che mirano alla resa dell'interlocutore andano a essere tirati per i capelli, ingarbugliati, insistenti ed eccitanti. Si può essere dignitosi o eloquenti, ma meglio le due cose assieme. La dignità serve a dimostrarsi l'un l'altro che non si dà troppa importanza al comprare e al vendere. L'eloquenza serve ad ammorbidire la risolutezza dell'avversario. Ci sono argomenti che suscitano scherno e nient'altro, altri invece che vanno dritti al cuore. Tutto bisogna tentare prima di cedere, ma anche quando è giunto il momento di cedere, bisogna farlo all'improvviso e di sorpresa, così che l'avversario rimanga sgomento e ci offra l'opportunità di guardarlo dentro. Alcuni disarmano l'interlocutore con arroganza, altri affascinandolo. Ogni trucco è permesso. Un cedimento dell'attenzione è inconcepibile. Nelle botteghe grandi, grandi abbastanza da poterci entrare e gironzolare, il venditore ha l'abitudine, prima di cedere, di consultarsi con un'altra persona. Questo altro, che se ne sta sullo sfondo con aria indifferente, come una specie di capo spirituale dei prezzi, compare sì sulla scena, ma non partecipa personalmente alla trattativa. Ci si rivolge a lui solo per consultarlo sulle ultime decisioni. Ed egli può, per così dire, autorizzare fantastiche variazioni del prezzo anche contro la volontà del venditore. Ma poiché è lui che lo fa, lui che non ha partecipato alla trattativa, nessuno ci ha rimesso nulla. Le grida dei ciechi. Tento di raccontare qualcosa, ma subito ammutolisco e mi accorgo di non aver detto ancora niente. Una sostanza meravigliosamente lucente che non riesce a fluire rimane dentro di me e si fa beffe delle parole. Sarà per la lingua, che là non capivo e che ora poco a poco deve tradursi in me. Si trattò di avvenimenti, immagini, suoni il cui senso si formò allora, ma che non furono percepiti né definiti per mezzo delle parole. Stanno al di là delle parole e sono più profondi e più ambigui delle parole. Io sogno un uomo che disimpari a tal punto le lingue della terra da non comprendere più in nessun paese ciò che dice la gente. Che c'è nella lingua? Che cosa nasconde? Che cosa ci sottrae? Durante le settimane che ho trascorso in Marocco, non ho tentato di imparare né l'arabo né alcuna delle lingue berbere. Non volevo perdere nulla della forza di quelle strane grida. Volevo essere colpito da quei suoni per ciò che essi erano, e non volevo che nulla fosse attenuato da cognizioni inadeguate e artificiose. Sul paese non avevo letto niente. I suoi costumi mi erano estranei, come la sua gente. A ciascuno capita di imparare nel corso di una vita qualcosa su tutti i paesi e su tutti i popoli, ma quel poco lo smarrì nelle prime ore. Mi rimase tuttavia la parola Allah. Non potevo evitarla. Mi veniva concessa per una parte della mia esperienza, la più frequente, la più penetrante e più persistente, l'esperienza coi ciechi. Quando si viaggia, si prende tutto come viene. Lo sdegno rimane a casa. Si osserva, si ascolta. Ci si entusiasma per le cose più atroci, solo perché sono nuove. I buoni viaggiatori sono gente senza cuore. Quando l'anno scorso, dopo 15 anni di assenza, mi accostai a Vienna, passai da Blindenmarkt, paese del quale in passato non avevo mai sospettato l'esistenza. Quel nome mi colpì come una frusta e da allora non mi ha più abbandonato. Quest'anno, quando giunsi a Marrakesh, mi trovai di colpo tra i ciechi. Centinaia, un numero incalcolabile di ciechi, per lo più mendicanti, in gruppi a volte di 8, a volte di 10, stavano in fila al mercato, pigiandosi l'un l'altro, e recitavano una roca litania, eternamente ripetuta, che si udiva da molto lontano. Mi misi davanti a loro, immobile come loro, e non fui mai del tutto certo che avvertissero la mia presenza. Ciascuno di quei ciechi tendeva davanti a sé una ciotola di legno per l'elemosina, e quando un passante gettava qualcosa in una di queste ciotole, la moneta offerta passava di mano in mano. Tutti la tastavano, tutti l'assaggiavano, finché uno, questo era il suo compito, la metteva finalmente in tasca. Tastavano insieme, così come insieme mormoravano e gridavano. Tutti i ciechi offrono a chi passa il nome di Dio, e ogni persona, dando loro l'elemosina, può acquistare qualche diritto presso di lui. Iniziano con Dio, terminano con Dio, ripetono il suo nome 10.000 volte al giorno. Tutte le loro grida contengono il suo nome in forme mutevoli, ma il grido, una volta stabilito, rimane sempre lo stesso. Sono arabeschi acustici intorno a Dio, 1.000 volte più impressionanti di quelli visivi. Alcuni confidano soltanto nel suo nome e non gridano altro. C'è in questo una tremenda ostinazione. Dio mi si presentò come un muro, al quale i ciechi davano l'assalto sempre nello stesso punto. Sono convinto che i mendicanti si tengano in vita più con le loro formule che con l'elemosina. Colui che grida è definito dal suo grido, continuamente ripetuto. Ce lo imprimiamo nella mente, lo conosciamo. Ora egli è qui per sempre, e lui, nella sua caratteristica nettamente circoscritta, il suo grido. Non verremo a sapere nient'altro di lui, egli si protegge. Il grido è anche il suo confine. In questo luogo preciso, egli è ciò che grida. Esattamente questo, niente di più, niente di meno. Un mendicante, cieco. Ma il grido è anche una moltiplicazione. Il suo ripetersi rapido e regolare fa di quell'uomo un gruppo. C'è nel suo chiedere un'energia speciale. Egli chiede per molti e in tasca per tutti. Pensa ai mendicanti, a tutti i mendicanti. Dio ti benedica per tutti i mendicanti ai quali fai l'elemosina. Si dice che i poveri arriveranno in paradiso 500 anni prima dei ricchi. Con le elemosine si acquista dai poveri un pezzo di paradiso. Quando uno è morto, lo si segue a piedi, con o senza prefiche gorgheggianti, molto velocemente, fino alla tomba, perché il morto raggiunga presto la beatitudine. I ciechi cantano la professione di fede. Da quando sono tornato dal Marocco, ho provato a sedermi in un angolo della mia stanza, gli occhi chiusi, le gambe incrociate, e ho tentato di dire per mezz'ora, alla velocità giusta e con la giusta intensità, Allah, Allah, Allah. Tentavo di immaginare che avrei continuato a dirlo così per tutto il giorno e per una buona parte della notte, che dopo un breve sonno avrei ricominciato, che avrei proseguito per giorni, settimane, mesi e anni, che sarei diventato vecchio, sempre più vecchio, vivendo in questo modo, e che a questo tipo di vita sarei rimasto tenacemente fedele, che sarei diventato furioso se qualcosa me l'avesse turbata, che non avrei voluto nient'altro, che avrei perseverato fino in fondo. Ho capito quanto sia allettante questa vita che tutto riduce alla ripetizione, nella sua forma più semplice. Era poi molto più varia l'attività degli artigiani che vedevo al lavoro nei loro piccoli stanzini, e le trattative dei mercanti, e i passi dei ballerini, e le innumerevoli tazze di tè alla menta che qui tutti gli ospiti prendono. Quanta varietà c'è nel denaro e nella fame! Ho capito che cosa sono davvero questi mendicanti ciechi. Sono i santi della ripetizione. Dalla loro vita essi hanno eliminato la maggior parte delle cose che per noi ancora si sottraggono alla ripetizione. C'è il luogo dove si accoccolano, oppure stanno in piedi. C'è il grido che non muta. C'è il numero limitato di monete in cui possono sperare. 3 o 4 pezzi diversi. Certo, ci sono anche i donatori, che sono diversi. diversi tra loro, ma i ciechi non li vedono, e nella loro formula di ringraziamento fanno sì che anche i donatori diventino tutti uguali. Thank you.